IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. È proprio così, come è detto nella sigla di questa che è la prima puntata del nostro viaggio nell'intelligenza artificiale. Non possiamo capire come si evolveranno le macchine che oggi noi abbiamo diventando intelligenti se non abbiamo un'idea di che cosa sia la nostra intelligenza. La dico meglio, se vogliamo affrontare il tema antico e inquietante delle macchine che un giorno potrebbero governarci, allora dobbiamo averla più chiara di quanto la si abbia ora, questa distinzione fra intelligenza artificiale e intelligenza umana o animale, perché c'è anche questa. Magari accadrà che non saranno intelligenti come noi le macchine, ma lo saranno come un cane, un cavallo. Ci andrà bene? Nel corso delle 18 puntate di questo viaggio sentiremo diverse storie e opinioni. Ogni puntata avrà una sua autonomia, ma se qualcuno volesse ascoltarle tutte con l'obiettivo di avere un quadro chiaro di che cosa sia l'intelligenza artificiale, ebbene, questo non accadrà, ma nemmeno se fossero 100 le puntate. È un grande tema, affascinante, suggestivo, come un film giallo del quale vedessimo una serie di spezzoni, intuendo che la storia è emozionante, ma il finale non c'è niente da fare, non possiamo ancora raggiungerlo. Allora vediamo qualche spezzone di questo film. Un primo grande problema: i robot che vediamo intorno a noi hanno delle forme che bene o male sono sempre quelle, ma vanno bene se devono imparare ad essere intelligenti? C'è chi dice, come Danilo De Rossi del centro ricopiaggio di Pisa, che da quella parte non si possono fare progressi. Il mondo non è pianificabile. Faccio un esempio. Noi abbiamo l'illusione di fare piani, ma siamo mossi da desideri, pulsioni e bisogni. Quello che avviene, non lasciamo stare, anche nel nostro sistema ultrastrutturato, non lo puoi fare pianificato in un programma. Non esiste. Non esiste, prendi una storia, cioè non esiste, è tutta un'illusione deterministica, un'illusione tendente a un razionalismo sciocco. Non è possibile, quindi tutto avviene attraverso l'interazione col mondo, e non c'è interazione col mondo se non c'è un corpo, se non c'è un apparato motorio. Si dice anche, l'avrete sentita questa storia, no? Che per avere macchine in gamba è necessario che esse imparino e non pensare che nascano imparate. Ora, come parliamo noi a un piccolo di umano? Essere o non essere, questo è il problema, se sia più nobile d'animo sopportare gli oltraggi, sassi e via dicendo, magari con un teschio in mano? No, noi diciamo questa pappa buona, questo dito, pollice, pollicione. Allora dovremmo tirar su dei robot per 10 o 15 anni? Cecilia Laschi della Scuola Superiore di Sant'Anna a Pisa. No, bene, i robot sono comunque, queste fasi di apprendimento sono comunque più veloci che nell'essere umano, anche perché poi alla fine è più semplice il sistema, insomma. Ci sono meno cose da imparare, per cui sì, ma fase di apprendimento c'è, è l'aspetto negativo di queste tecniche, cioè dobbiamo rassegnarci che ci sia una fase di apprendimento, però ora dipende dal compito, ma si parla sempre di ore al limite giorni per un robot, ecco, non anni come nei bambini. E il vantaggio qual è, però, che diciamo, avendo la pazienza di aspettare queste ore, questi giorni, il robot può in qualunque momento della sua vita, diciamo, della sua esistenza, imparare un nuovo compito. Un'altra variazione sul tema è che ci si mette insieme, che uomo e macchina collaborino per fare cose che nessuno separatamente saprebbe fare meglio. Macchine altamente collaborative, dunque. E a questo punto accadrà che si possa sviluppare un rapporto empatico fra me e quel robot lì con il quale lavoro tutti i giorni, cosa che forse ora è un po' fantascientifica. Andrea Zanchettin del Politecnico di Milano. Credo proprio di sì, però come sostanzialmente abbiamo detto è fantascienza, ma sicuramente nella giusta direzione, nel senso che tutti noi siamo diversi, ognuno di noi ha le proprie preferenze, sì. E avendo appunto una modalità non fissa, ma una serie di possibili modalità di comunicazione, ovviamente la personalizzazione del modo che ha il robot di comunicare con la persona è sicuramente un aspetto importante. Ray Kurzweil, futurologo, in una conferenza TED va ancora più avanti. 20 years from now. Fra 20 anni avremo i nanobot, perché è un altro trend esponenziale, il rimpicciolimento della tecnologia. Entreranno nel nostro cervello attraverso i capillari e in pratica collegheranno la nostra neurocorteccia ad una neurocorteccia nel cloud che fungerà da estensione alla nostra neurocorteccia. Mi spiego. Oggi avete un computer nel vostro cellulare, ma se avete bisogno di 10.000 computer per pochi secondi per effettuare una ricerca complessa, potete effettuarla per qualche secondo nel cloud. In the 2030s, you need some extra neocortex, you'll be able to connect to that in the cloud directly from your brain. Nel 2030, se avrete bisogno di un po' di neurocorteccia in più, sarete in grado di collegarvi a quella del cloud direttamente dal vostro cervello. Così i nostri pensieri saranno un ibrido fra pensiero biologico e non biologico, e la parte non biologica sarà soggetta alla mia legge sul ritorno accelerato. Crescerà in modo esponenziale. Ricordate cos'è successo l'ultima volta che la nostra neurocorteccia è aumentata? È successo 2 milioni di anni fa, quando siamo diventati umanoidi e abbiamo sviluppato questa fronte ampia. Gli altri primati hanno una fronte inclinata, non hanno la corteccia frontale. La corteccia frontale non è differente dal punto di vista qualitativo. È un'espansione della neurocorteccia, ma questa quantità aggiuntiva di pensiero è stato il fattore che ci ha permesso di fare il salto qualitativo e di inventare il linguaggio, l'arte, la scienza, la tecnologia. Nessun'altra specie l'ha fatto. Quindi, nella prossima decina di anni, lo faremo nuovamente. Espanderemo nuovamente la nostra neurocorteccia, solo che questa volta non sarà limitato da una struttura chiusa. Si potrà espandere senza limiti. La quantità aggiuntiva sarà di nuovo il fattore che permetterà un altro salto qualitativo nella cultura e nella tecnologia. Nel discutere di intelligenza in generale, dobbiamo anche stare attenti che noi umani ce la tiriamo un po' troppo, a volte. Abbiamo un'idea un po' muscolosa dell'intelligenza. Le api hanno 1 milione di neuroni in testa, noi ne abbiamo 87 miliardi. Cosa ci dice Giorgio Vallortigara, neuroscienziato? Si insegna ad un'ape, per esempio, che tra due stimoli qualsiasi, poniamo un triangolo e un cerchio, tra cui deve scegliere dopo averne visto uno in precedenza, la regola è scegli l'eguale, quindi ti faccio vedere un cerchietto, poi ti faccio vedere un cerchietto e un triangolo e per ottenere il premio tu devi scegliere la figura uguale a quella che hai visto prima. Questo è un compito abbastanza facile, non è sorprendente che l'animale impari, però se si fa questo giochetto ripetutamente con triplette di stimoli via via diversi, quindi che so, una volta una croce e un rombo, un triangolo e un parallelepipedo, eccetera, eccetera, e la regola è sempre scegli l'eguale, dopo un po' l'animale è capace di generalizzare la regola, cioè qualsiasi coppia di stimoli nuovi si presentino, l'animale è capace di scegliere secondo la regola scegli l'eguale oppure scegli il diverso. Fa con un numero di prove molto, molto basse, tutto sommato, rispetto a quelle che sono necessarie per maneggiare lo stesso compito in animali più tradizionalmente studiati, cioè i classici piccioni o ratti, per esempio. E questo che tu dici è la capacità di elaborare un concetto, perché lo mette prima di qualunque sensazione, no? Ha capito qual è il fondamento. Esatto, è capace di estrarre la regola generale, eguale e diverso, è una categoria che si applica quale che sia l'esemplare particolare che stai usando. Quindi se io ti faccio vedere un triangolo e poi un triangolo e un cerchio, tu capisci che la risposta giusta è triangolo, perché è uguale a quello che ti ho fatto vedere. Se poi uso qualcosa di diverso, tipo una A e una B, ti faccio vedere la A e poi ti faccio vedere A e B, questa volta tu sceglierai la A, perché è uguale a quella che ti ho presentato poco prima, e così via. È un esempio, diciamo così, di quella che viene chiamata categorizzazione, la capacità di imparare qualche cosa come un esemplare generale di una categoria. Un modello. È il fondamento dei processi di pensiero. Qui la cosa interessante secondo me è che siamo stupiti, ma forse non dovremmo essere veramente stupiti, perché proprio perché hanno pochi neuroni si capisce perché abbiano così buone capacità di fare categorie. Fare categorie vuol dire fare classi di equivalenza, no? Vuol dire considerare stimoli che sono differenti uguali ai fini dell'esecuzione di una certa risposta. Quindi diciamo i classici esempi, no? Cane. I cani individuali sono tutti diversi l'uno dall'altro, cioè l'essi, il barboncino, eccetera, eccetera. Eppure noi abbiamo la capacità di raggrupparli in un'unica categoria. E noi esseri umani siamo anche capaci di dargli un nome, cane. Cane. Questo è estremamente utile perché a dispetto delle loro differenze individuali noi li possiamo trattare nello stesso modo, che so, li portiamo a spasso, sappiamo che cosa mangiano e così via. Se tu hai pochi neuroni, come accade al cervello di un'ape, memorizzare tutti gli esemplari individuali delle tue, come dire, sensazioni, delle tue percezioni è estremamente scomodo, perché hai pochi neuroni a disposizione. Quindi in un certo senso loro hanno ancora più bisogno di quanto ne abbiamo noi di fare categorie, di rappresentarsi concetti astratti, proprio perché hanno un sistema nervoso piccolo. Devo però avvisarvi che in questo viaggio nell'intelligenza artificiale non si parlerà affatto solo di robot, di macchine. Ci sono infatti gli algoritmi, ovvero programmi sofisticati che l'intelligenza ce l'hanno nelle loro istruzioni, no? Come se nella nostra testa avessimo una porta USB nella quale infilare una chiavetta con dei comandi. E poi incontreremo le reti di macchine, nelle fabbriche per esempio. Va bene, mi fermo qui. Le voci che avete sentito in questa puntata iniziale le ascolterete insieme a molte altre nelle prossime settimane. Se volete scrivere intelligenza artificiale @radio24.it, ma è intelligenza artificiale con due A al centro. Buona intelligenza a tutte e a tutti.